Infedele rosone, ingiusto padre, in vano quel duro cuore piega le sferrai. Oh, perfida Catone, male miei, freda signori segni, corsa in errore tua mente, e van sospetto ti prende contro me. Se tu sapessi quanto in seno di madre amor di figlio abbia di forza, il trono che non posso volerti l'invedresti. Essa non è della tua colpa parte. Signora mia madre, quanto più del regno tette minacce per acquisto, il mio rispettoso timore, l'amore di Cea mi chiedeva più che da vassallo. Donna, sento mai padre, ori or tali d'affetto d'onorero, ingiurioso inganno mio, non già le tante tue fedezze. Onorato Germano, sire di operi, non perdi l'amore mio. Che madre, figlio tal non arrustina, il genitore di Ante per tuo bella. Dio lascivo amante, quel delirio folle, la stessa madre a ripudiarti spinge. Sempre facile credenza a ciò che giova, ma ciò che non si deve credere colpa. Non t'accecchi così, vana lusinga, e tu fuor di timore godi il tuo impero, che sporri il sangue mio non vuo perilio. Tu sol sei il successore, tu sol il re, e non gli posso dire tu sol mio figlio. Madre, e figlio vero, che non ti parli al cuore più che il mio labbro, il sangue lascia il stolto pensier, e al se mi stringi dolce conforto mio, e quale son lieta per te, tu per me sia. Rustena, che l'amor provi di madre, a te sovrana sua lo raccomando, e tu prendi di me miglior consiglio. Tu sei il sovrano, tu sei, ah, quasi li dissi io, tu sei mio figlio.